Italo, 2010, sì. 36 anni dopo. 38 anni dopo. Volevo levartene due. Ti volevo. Ma dall'età anagrafica. Esattamente, esatto. Uno, due di meno. Lo stesso spirito, la stessa volontà, la stessa voglia di suonare. Certo, perché poi io in pratica, esclusi i primi 13 anni da quando ho smesso di con la raccomandata, che dovevo imparare a fare il pittore e quindi non ho più sentito quasi musica, mi sono perso quasi la metà degli anni 80, per sì. Fortuna. Per fortuna. Ci sarebbe da aprire un dibattito a parte su questo. Io sono d'accordo con te, Flavio un po' meno forse. Ma vabbè, ma perché poi essendo di generazione diversa. Esattamente. Io il progressive l'ho scoperto dopo o per demando dei miei fratelli che erano certo, molto più, un po' più anziani. Certo. Per cui vabbè, ho vissuto un po' con la musica degli anni 80, però adesso da profano mi sto inserendo appieno nel progressive e ho conosciuto anche raccomandata con ricevuta di ritorno. Sì. Io appunto avevo smesso quasi di fare tutto, poi invece nell'87 ho ricominciato a fare un po' di rock band qui all'Isola d'Elba dove io vivo, e nel 94 ho ricominciato con un gruppo di prog metal che erano i DGM. Sì. E poi ho fatto una 7-8 anni di produzione per una mia amica cantante, che è Cristina Scioni, che è anche nel mio disco nuovo. E niente, poi alla fine ho deciso di mettere su la band, la vecchia band. Non ci sono riuscito in pieno perché molti non erano più disponibili, però insomma alcuni hanno risposto e in più ho messo degli additivi come Claudio Simonetti, anche quello che avevano suonato con me tra l'altro nel ritratto di Dorian Gray. Tante cose, poi ricordiamo Claudio Simonetti che ha amato tanto anche il padre, ricorda che Claudio è stato il grande esponente dei Goblin, certo. Che sono andati al successo proprio per volontà ed espressione di Dario Argento, sì, questo profondo rosso che ci ha preso. Assolutamente un disco, anche quello un disco molto importante. Ricordo che si parlava con un collezionista di dischi ieri sera, è molto raro in vinile il tuo disco, Luciano. Sì, è molto raro. Molto raro, tanto è vero che costa il prezzo sui 500 euro. Ecco, vedi. Per farlo girare nel piatto, insomma. Ma ancora più raro è quell'altro, quello dei Samadi, perché io ho avuto un altro vero, band. Sì. Quello famoso con la copertina rossa e con... Sì, quello sta sui 600 euro, credo. Una cosa. Però, ho capito. Quindi Samadi, che ricordo, voleva dire pace interiore. Interiore, sì, ecco, bravo. Vogliamo vedere come mai è ripassato da questa esperienza con raccomandata con ricevuta di ritorno e poi ti sei spostato due anni dopo verso questa altra esperienza, forse un po' più... come dire, più alta da un punto di vista musicale ma anche spirituale. Ma perché tu sai che insomma le cose dall'America arrivano sempre 10 anni dopo, sì. Dopo il periodo proprio progressivo e hard rock che avevo fatto, avevo bisogno di fare una parentesi un po' californiana, un po' alla Crosby, Stills, fare dei pezzi un po' più jazzati, più con un rock più jazzato, e quindi con Nanni Civitenga mettemmo su questo gruppo tra i quali c'era anche Stefano Sabatini, che è diventato un grosso jazzista italiano, che poi è stato anche dei Caleidon, i Free Love, i famosi Free Love, che purtroppo morirono. Alcuni di loro morirono sull'autostrada quando sì. Facevano il gruppo di Mia Martini. Certo. Sì, da lì nacque quella storia nefasta che Mia Martini, poverina, portava sfiga. Esattamente. Sì. No, ma in effetti a un concerto che ha tenuto qua a Padova è caduto anche un traliccio, fortunatamente senza danni alle persone, c'era sempre di scena Mia Martini, per cui questo è servito solo ad amplificare, perlomeno sì, qui dalle nostre parti, ma assolutamente voglio ben pensare che queste era cose... Era assurdo, questa cosa era veramente assurda. Sì, una cosa... Sì, che poi si sa che i giornalisti o... magari concorrenti o nemici le tirano tutte in ballo pur di non fare una pubblicità pulita a un personaggio. Certo. In questo album mi pare che ci sia come ospite un altro personaggio molto interessante, Lino Vairetti degli Osanna. Sì, sì. Osanna, altro gruppo storico, sì. Da Palepoli in su o in giù, dipende dai punti di vista. Certo. Ecco, tra altre cose, volevo chiederti, ma è ancora truccato Lino Vairetti? Sì, è ancora truccato perché noi abbiamo una passione comune con Lino, perché nel 71 arrivò a Roma un sconosciutissimo Arthur Brown, non so se lo conoscete. Come no, Fire! Ecco. Esattamente, era tremendo, faceva uno stage act teatrale eccezionale, con certo, luci, trucchi, eccetera. E credo che lo vedemmo veramente in poche decine di persone in quella tournée, e fra i quali c'ero io e Lino, credo a Napoli, non so dove andò Arthur. E a quel punto, dopo qualche mese, loro uscirono fuori con questi trucchi assurdi che avevano sicuramente preso anche da... Anzi, Lino me l'ha proprio detto. Da Arthur Brown, praticamente. Certo. Esattamente. Vabbè, allora stiamo parlando piacevolmente con Luciano Regoli per la presentazione del disco che uscirà tra qualche giorno, esattamente il 16 febbraio, però vogliamo anche cominciare con quella che è la musica presente in questo disco, che si intitola Il pittore volante, in pieno stile progressivo. Siete pronti, carissimi ascoltatori? Benissimo, allora Luciano, facciamo ascoltare qualcosa e dopodiché torniamo a commentarlo all'interno delle frequenze di Blu Radio Veneto. Ok, grazie. Blu Radio Veneto. Ah, yeah. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato questo pezzo fino all'ultimo, ne valeva veramente la pena. Abbiamo anche il piacere di ascoltarlo ancora prima che il disco esca ufficialmente in tutti i negozi di dischi. L'appuntamento è fissato per il 16 febbraio, ma noi abbiamo il piacere di parlarne con Luciano Regoli dei sì. Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Ancora buona serata, Luciano. Ciao, buonasera. Ciao Luciano, abbiamo scelto volutamente questo pezzo che è anche la traccia numero uno perché dà una finestra esatta del prog firmato, raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Ci sono delle chitarre distorte a momenti, c'è questo, questo jam session finale che dà proprio l'esatta forza, l'esatta grinta, l'esatta voglia di fare della band rinata, grazie a te e gli altri. Grazie. Ma si parlava anche un po' di questa differenza sì. o di questa maturità raggiunta o di questa maturità che continuerà poi, ci auguriamo, anche nel prossimo futuro senza dover aspettare altri 38 altri, anni. Esattamente. Diciamo. No, tra 30 anni non so dove sarò. No, assolutamente, questa era una battuta, comunque tanto per dire adesso che si è ritornati con questo nome, tra altre cose sempre molto apprezzato anche negli anni 72 e soprattutto con te e gli altri artisti che hanno preso parte a questo lavoro. Ma il pittore volante, ricordiamo che tu Luciano, oltre ad essere cantante e chitarrista, sei anche un pittore, l'abbiamo ricordato prima, e la copertina del tuo nuovo lavoro è ben visibile, una tua opera. È un mio autoritratto. Ecco, benissimo, non volevo dirlo io, ma... è un mio autoritratto mascherato però. Ah, bene, mascherato. Bene. Sì, un po' l'Arthur Brown, perché c'è ecco, sempre questa... C'è sempre, che viene fuori in qualsiasi momento Arthur Brown. Sì, sì, è l'Arthur... È di famiglia, diciamo. Esattamente. Tra le altre cose, Luciano, io ho capito che questo disco, questo CD, non uscirà solo CD, ma c'è un'operazione più complessa dietro e con, diciamo, riservata a un pubblico di collezionisti, ma anche non sì. solamente a collezionisti di musica, anche a collezionisti di opere d'arte, quale potrebbe essere un quadro. Sì, sì, dunque c'è un cofanetto che uscirà, è numerato in 66 copie per la BTF, dove dentro ci sarà un dipinto mio originale, quindi io ho fatto 66 dipinti grandi come un vinile, poi ci sarà il vinile, il CD, ci sarà il videoclip del cambiamento che abbiamo prodotto qui all'Isola d'Elba, e poi ci sarà il libro Il pittore volante che io ho scritto una decina d'anni fa e da dove ho tratto tutti i testi, e una foto della raccomandata Ricevuta di Ritorno al Festival Pop di Villa Panfili del 72. Bellissimo, un episodio straordinario quello. Sì, appunto. Molto interessante. Che non ha niente a che vedere con Woodstock. Vero? No, è un gusto italiano, potremmo dire così, sì, cosa dici? Sì, direi proprio sì, direi proprio che è stata la prima Woodstock italiana, quella vera, insomma. Esattamente. Anche perché non c'erano solo gli artisti italiani, c'erano anche artisti... stranieri, cioè, sì, no, che poi non sono venuti più in Italia per due o tre anni, no? Mi ricordo sì. che c'era stato anche un grande problema nel fatto di affrontare questi concerti, soprattutto perché la gente si era messa in testa che come a Woodstock a un certo punto non si pagava il biglietto. Esattamente. Proprio era un motivo di ordine sì, pubblico. Ma mentre lì era un fatto, diciamo, più idealistico, qui da noi era un fatto politico. Ecco, sì. Certo, sì. Quindi la musica non si doveva pagare, sfasciavano tutto e volevano entrare gratis. Esattamente. Assolutamente. Quindi invece a Woodstock si lasciava solo Jimi Hendrix sfasciare la sua chitarra. C'è una curiosità, voi vi siete sciolti perché la casa discografica vi imponeva di andare a Sanremo, e vedi caso il tuo disco esce dopo Sanremo, qualche giorno dopo Sanremo, quindi è già sì. una cosa insignificativa, interessante. Sì, perché diciamo che ci siamo sciolti dentro la sala di registrazione mentre incidevamo il pezzo per Sanremo, che esiste da qualche certo. parte negli archivi della Fonit, mi pare, forse. No, non più della Fonit, ma credo che abbia acquisito tutto la Warner. Ah, la Warner, okay. Lei è la Warner che adesso ristampa le cose nostre. E quindi ci fu una litigata furiosa, come succedeva in quel periodo, e dopodiché ci sciogliemmo, quindi non siamo più andati a Sanremo. Ma avete per nostra fortuna. Bene. Ecco, sì. Per nostra fortuna non siamo andati a Sanremo. No, assolutamente. Ma avete deciso dopo 30, 38 anni un disco decisamente più importante. Sì. Grazie. Vabbè, allora parliamo di tutti quelli che prendono parte al disco, oltre a Nanni Civitenga che era con te ancora con l'esperienza prima di Raccomandata con Ricevuta di Ritorno e anche con i Samadi, c'è poi anche Roberto Gardin, altro reduce, poi Walter Martino, altro che arriva dopo l'esperienza RRR e Goblin. E poi ancora Claudio Simonetti, ma ci sono anche importanti ospiti, non solamente italiani ma anche stranieri. Di italiani abbiamo citato Lino Vairetti, ma di stranieri c'hai qualcosa? Allora, di stranieri, per merito del mio chitarrista Massimiliano Castellani, che poi è nel disco mio, Carve Ryan, che è un suo amico, sì. Abbiamo chiesto se voleva partecipare a questo progetto, gli è piaciuto molto il pezzo, abbiamo mandato il pezzo giù a Los Angeles e lui ha messo la chitarra in file e ce l'ha rimandata. È contentissimo. Il progressive a distanza. Ricordiamo che Carl Ryan è il chitarrista anche di Supertramp, senza sminuirlo. Big Cheese, sì. Ha fatto un sacco di era cose. Era un sideman di lusso praticamente. Sì, di gran lusso. E noi siamo amici perché lui a lui piace molto l'Isola d'Elba e viene ogni tanto viene qui. Anche a noi. Allora vieni da trovarci. Sì, certo, vedremo di metterlo in preventivo per le prossime estate. Tra l'altro parte di questo disco è stato registrato qui proprio all'Isola d'Elba, nello studio di Walter Martino. Ah, sì, bene. Poi appunto alcune chitarre sono state fatte giù a Los Angeles e poi da Claudio Simonetti all'Aquarius giù a Roma. Che atmosfera si respirava in quel momento quando contavate i pezzi, ricostruivate un discorso diverso rispetto ai 38 anni prima? Beh, devo dire però che tutti i pezzi sono miei, nel senso che l'ho scritti io e i testi sono miei, quindi io ho portato già il materiale pronto. Il materiale pronto e loro hanno fatto soltanto una revisione, un arrangiamento. Devo dire anche i miei prog metal DGM degli anni 90 hanno partecipato, come Maurizio Pariotti, che è il mio tastierista e che ha fatto appunto l'arrangiamento del cambiamento che abbiamo sentito adesso. Certo, certo. Quindi, cose, ancora complimenti perché è veramente un pezzo che non so quanto radiofonico sia, però gli amanti del progressive, solo che il progressive ha questa cosa, non va ascoltato una volta ma va recepito a piccole dosi per poi ascoltare tutta l'ensemble musicale. È vero, è proprio così, certo. Bene, allora, ricordo ancora i nostri ascoltatori, siete su Blu Radio Veneto, all'interno di Blu Radio Sera, io Flavio Bilato e Maurizio Cazzavar dall'altra parte del vetro, stiamo piacevolmente conversando con Luciano Regoli, dei Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, e stiamo parlando anche relativamente ad un CD che non è solo prima, che si intitola Il Pittore Volante e che uscirà tra qualche giorno, quindi il 16 febbraio. Qualche giorno fa, quando ci siamo sentiti per telefono per disporre l'intervista, tu mi dicevi che c'era stato un notevole movimento positivo su questo disco, e non soltanto dai giornali. Devo dire incredibile, non me l'aspettavo proprio, assolutamente è una cosa inaspettata. C'è un fermento notevolissimo. Io ho tantissime interviste telefoniche o anche in studio. Ora sarò a Radio Prato fra un paio, 4-5 giorni. E, insomma, c'è stato un grande interesse, questo mi fa molto piacere. Forse anche inaspettato interesse, visto che il progressive diciamo che ha un approccio un po' forte e quindi non tutti sono sempre pronti ad ascoltarlo, prima devono passare per un certo loro percorso obbligato, quindi il prog non è questa immediatezza che si vorrebbe. Certo, però qui c'è questa notizia, me lo diceva il mio ufficio stampa, che c'è la notizia che 38 anni sono tanti e fa impressione questa cosa. Esattamente. Capito? 38 anni, assolutamente, fa impressione. Però non sembrano 38 anni passati, chiaramente. C'è, come avevamo detto all'inizio, c'è grinta, c'è voglia di fare. Quello sì, è importante. Sì, quello sicuramente. È fondamentale. Certo. Poi un'altra cosa che io ho una Regoli Band dove faccio i pezzi dei Led Zeppelin. Ah, ecco. Quelli di cazzo. Fantastico. Noi parlavamo anche di un'altra cosa, che per esempio in Giappone siete molto famosi, avete un nutrito seguito. Sì, sì, è molto amata la Raccomandata Ricevuta di Ritorno, tant'è vero che, guarda, ho già avuto delle prenotazioni per il mio box ecco, in Giappone e già abbiamo In prevendita abbiamo avuto 400 copie. Però, non mica male. Quindi sì. È facile che ci sia una tournée prevista anche... Vado proprio a Roma per parlare con il mio vecchio promoter Pino Tuccimei, sì, della raccomandata, perché so che sta organizzando, ha saputo che c'è questa cosa, questa reunion, sta organizzando qualcosa con gli Osanna per il Giappone e voleva parlare però, con me, bene, anche con bene. Me. Ah, benissimo, quindi facci sapere quando sarai se passerai da queste parti, si sa mai. Certo, okay, assolutamente, abbiamo bisogno del sano prog. Ecco, benissimo, allora terminiamo per un momento di parlare perché c'è bisogno di ascoltare anche un altro pezzo che abbiamo pensato di sentire, di inserire all'interno della nostra programmazione per far conoscere quest'album che si intitola appunto Il Pittore Volante dei Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Allora, ascoltiamo un pezzo che si intitola La Spiaggia, sì, ed è proprio anche... È una ballata, abbiamo scelto una ballata, l'altra faccia vostra, secondo va me. Va bene, va bene. Benissimo, qui su Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Con quel sordo rumore, quel mare che sulla spiaggia frangeva come un cane alla catena che non può andar più là. Così nel dormiveglia mi pareva il mar. Spiaggia larga, immensa, solitaria, bagnata. Urlava il mare, un tonfo sordo schiantava. L'onda che innalzandosi si disintegrava. Io nella spiaggia, alle spalle le rocce, davanti il rumore del mare, mi sentivo soffocare. Oscuro figuro da quelle rocce mi chiese qualcosa, risposi a mezza bocca e con calma voluta mi allontanai. Io nella spiaggia, alle spalle le rocce, davanti il furore del mar, lo sentivo respirare. Salì i primi gradoni di roccia, uno, due e dopo gli altri, quando fu abbastanza lontano da lui e dall'oceano curioso, li spiai. Io nella spiaggia, alle spalle le rocce, davanti il fragore del mar, mi sentii soffocare. Con quel sordo rumore, tutta la notte con quel sordo rumore, tutta la notte con quel sordo rumore, tutta la notte con quel sordo rumore, tutta la notte con quel sordo rumore. Sordo rumore, tutta la notte con quel sordo rumore. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta su Blu Radio Veneto, questa è Blu Radio Sera, io sono Flavio Bilato, dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara e stiamo piacevolmente ascoltando, nonché parlando con Luciano Regoli, protagonista per questo disco assieme alla nuova raccomandata con ricevuta di ritorno, e questo CD che stiamo ascoltando insieme, stiamo amando, che si intitola Il Pittore Volante. Luciano, a me è piaciuto particolarmente questo pezzo, a noi della redazione è piaciuto particolarmente e ho deciso di inserirlo, di farlo ascoltare, perché è un'altra faccia della raccomandata, secondo me, la faccia melodica che ci vuole anche nel prog, secondo certo, me. Certo, certo. Beh, non sarebbe prog se non ci fossero tutte queste influenze. La melodia è fondamentale. Sì, sì, è italiana poi. È italiana, esatto. Non per questo il prog che interessa è quello italiano, oltre a quello inglese. Perché noi ci abbiamo messo dentro la nostra melodia. Certo, certo. Certo, assolutamente vero. E poi è vero anche che molti che hanno operato nel periodo prog di 38 anni fa, poi sono entrati verso la musica leggera, anche se poi qualcuno di più, qualcuno meno. Stiamo parlando di vari Alan Sorrenti, piuttosto che ha avuto quell'album straordinario che, era Aria. Che è Aria. E poi anche di Michele Zarrillo. È vero. Con Michele siamo molto amici. Ecco. E lui cominciava dal prog, anche lui praticamente. Sì, sì, lui con i Semiramis. Esattamente, i Semiramis, giusto. Sì, sì. Ma comunque quando lo vedrò a Michele gli darò subito il CD perché mi fa piacere anche un po' farlo palpitare di queste cose, che lui so che ancora gli piacciono. Eh sì, assolutamente. Io ricordo che è venuto anni fa qui da noi e abbiamo parlato proprio dei suoi inizi prog, praticamente, con quel gruppo romano proprio. E Roma era una piazza importante, interessante, si sviluppava il discorso del prog anche a Roma decisamente, con voi e con altri gruppi. Certo, certo. Perché poi c'era anche la scuola romana cantautorale, che però viaggiava in parallelo, si può dire. Sì, sì. E ha rubato anche un po' di spazio a quella che era la nuova generazione prog. Infatti io smisi nel 74 dopo i Samadi, l'esperienza Samadi, perché o diventavi un cantautore oppure dovevi fare altre cose, pop, eccetera. Allora preferii completamente cambiare mestiere. Buttarti sull'artistico, fare il pittore. Sì, sì. Però sei ritornato nel momento giusto, perché a dire di verità, parlavamo io e te qualche tempo prima, sempre per mettere a posto l'intervista, che c'è un ritorno al prog. Un ritorno, abbiamo parlato degli Osana, abbiamo parlato dei Delirium, abbiamo portato dei rovescio della medaglia. Gli stessi New Trots si sono. E gli stessi New Trots, la formazione originale, no? Sono ritornati e fanno il concerto grosso numero 3 adesso, quindi sempre con Bacalov, quindi tante belle cose che si stanno sviluppando. Quindi sono finite le diatribe del nome mio? Sì, sono finite a quanto sembra. Benissimo, sì. Sono contento. Però sono cominciate quelle delle orme, purtroppo. Sono finite male. Ne sentivo parlare, ma è già da un paio di mesi. Sì, sono completamente sciolti. Totalmente sciolti. Anzi, orme non esistono più, troppo. Peccato, perché questo non lo sapevo. Sono completamente sciolti, decisamente. È una cosa brutta, perché le orme erano un gruppo fondamentale per quel periodo. Non solo, ma poi hanno resistito fino adesso. Esattamente, hanno resistito. Assolutamente sì, hanno fatto dei pezzi davvero clamorosi, ancora ascoltabili, e soprattutto ripresi anche in chiave pop da altri artisti. Certo. Mi sembra anche gli Aeroplani Italiani hanno citato qualche pezzo delle orme. E poi adesso, tra altre cose, anche Aldo Tagliapietra deve aver diffidato in qualche maniera Michi dei Rossi, proprio di non usare portare, il nome, sì. E per non portare più le sue canzoni in giro. Vabbè, esattamente. Queste sono cose brutte. Sono cose brutte, effettivamente. Infatti. L'armonia, quando si rompe l'armonia, c'è niente da fare. Vabbè, allora abbiamo approfondito l'argomento del Pittore Volante, quest'ultimo lavoro che uscirà tra poco in tutti i negozi di dischi, esattamente il 16 febbraio, la nuova raccomandata con ricevuta di ritorno con Luciano Regoli, che è stato con noi per una ampia presentazione di questo lavoro e che abbiamo anche imparato a conoscere in diretta a radio. Allora, prima di lasciarci, qual è, Luciano, tra le canzoni, tra le musiche di questo CD, quella che vuoi farci ascoltare? Noi ne abbiamo scelte due, una io, una Maurizio. Qual è la terza canzone che vuoi farci ascoltare per dare maggiore impronta a quello che è il tuo nuovo progressive? Sì, io ascolterei Eagle Mountain. Eagle Mountain è una località dell'Arizona dove io ho fatto un viaggio parecchi anni fa con un amico e abbiamo avuto un'avventura strana che io racconto in questa canzone. farei sentire questa qui, Eagle Mountain. Benissimo. Benissimo. Allora ricordiamo comunque come ultima cosa che per chi è veramente amante del prog e quindi anche del CD di Raccomandata con ricevuta di ritorno, che uscirà anche in versione LP, in questa versione un po' particolare, ma saranno in pochi i fortunati che vedranno questa tua opera completa. Sì, 66 cofanetti. Chiunque fosse interessato potrà andare sul www.btf.it e ordinarlo in questa maniera. Quindi 66 fortunati, c'è poco. 66 altro. Fortunati. Magari se arriva al 67esimo, si sa mai. Vabbè. Ok, magari dopo è la copia che vale di più, perché sai. Certo, è fuori dall'ambito. Vabbè, allora chiudiamo in bellezza per volontà di Luciano Regoli, di Raccomandata con ricevuta di ritorno, ascoltando appunto questa Ego Mountain. E quindi, Luciano, che dire, grazie che sei stato con noi a parlarci della tua musica. Grazie ancora a tutti voi. Con la promessa, quando verrai a Padova, di fare una cappatina qui. Sì, volentieri, molto volentieri. Un po' con una chitarra o qualcosa d'altro a suonare e a ricostruire quei bei momenti. Insomma. Molto volentieri, molto benissimo. Volentieri. Allora, grazie Luciano. Grazie Luciano. Buona serata. Buona serata. Grazie. Ciao. Ci ascoltiamo un altro pezzo appunto del lavoro di raccomandata con ricevuta di ritorno. Si intitola Eagle Mountain, mentre il CD completo si intitola Il Pittore Volante. Strada sterrata che ci portava in una piana che si perdeva tra le montagne. Era il deserto. Atmosfera. sole. Sabbia bianca e fina che affogava in quell'aria grigia e calda. Silenzio. Entrare in questi pezzi, ma solo per ricordare che abbiamo ascoltato gran parte del lavoro della nuova raccomandata con ricevuta di ritorno, che si intitola Il Pittore Volante, che si potrà comprare nei negozi di dischi a partire dal 16 di febbraio, e abbiamo parlato appunto con Luciano Regoli per la presentazione di questo suo nuovo disco. Allora, per continuare con una musica buona, tanto per non cambiare repentinamente il tappeto musicale, abbiamo scelto assieme a Maurizio di ascoltare anche un qualcosa dei Led Zeppelin, che andava e va ancora e alla grande. Un lot of love. You need to...